portone di scuola, incapace di dirti una sola parola, con la barba non fatta per darmi importanza, le stelle di latta pendevo alla stanza. Ti seguivo per strade ed il braccio ingessato, quando presi coraggio lo volli firmato. Alla fine lo tolsi ed appesi anche quello tra le stelle di latta ed un vecchio coltello. Poi rimasi a graffiarmi pensieri nel letto, l'amore un sole in mezzo al cielo, a giocare coi sogni che scavano il petto, l'amore un'ala in mezzo al volo, a guardare il mio viso smarrito allo specchio, sentirmi a vent'anni, vent'anni più vecchio. L'amore poi si lascia. Se ti avessi saprei darti un'anima, quante notti sei stata mia, anche se nella fantasia. Se ti avessi così dolce e tenera, quante frasi mi inventerei ai capelli tuoi. Una vecchia bottiglia trovai su un torrente, l'amore un sole in mezzo al cielo, poi ci misi un biglietto, lo affidai alla corrente, l'amore un'ala in mezzo al volo, e le corsi un po' dietro la testa confusa, la vidi affondare e tornai verso casa. L'amore poi ti lascia. Se ti avessi saprei darti un'anima, quante notti sei stata mia, anche se nella fantasia.